vedi, e poi anche tra 10 anni come credi di viverla? Cucina a casa, ci porti i figli. Tra 10 anni ci porti i figli, magari sono un po' disoccupato. Ok, aspetta, vai. E rieccoci qui, sempre transizione di fase, sempre dall'area occupata delle ex officine delle Ferrovie della Calabria per questo speciale su Fiera Immensa, questo momento di convivialità e di socialità altra che si svolge ormai da 11 anni a Cosenza e dal 2007 siamo qui in quest'area. Dunque abbiamo qui con noi un giovane volontario, un volontario. ogni tanto voglio questa soddisfazione, sempre gli altri che sono giovani, basta. Come la vivi tu? Questa è la domanda che ci siamo, dovete sapere, ci siamo concordati. Questa. Tu, come la vivi? Beh, la vivo assolutamente come un momento di gioia, un momento di incontro con altre persone, nonostante magari ogni anno ci siano vari problemini, no? Però in generale c'è un momento di incontro con altre persone. Non è un momento, cioè un momento straordinario che però dovrebbe essere ordinario, nel senso che non dovrebbe mancare l'incontro al di fuori di questi 5 giorni. Ok, un momento straordinario che dovrebbe essere ordinario. Ordinario come lo scorrere del tempo. E qui ecco la seconda domanda che ci siamo concordati. Oh, fra 10 anni, se chiudi gli occhi e pensi Fiera Immensa, come la vedi? Va, tra 10 anni, viste anche le situazioni che ci sono, no, in Italia, la vedo come un momento anche di ritorno, un momento fondamentale in cui tornare in Calabria, a Cosenza, se non fossi qui a vivere tra 10 anni, perché purtroppo la situazione non è delle mie. E 13 anni, spero sia un momento ancora più ordinario, meno straordinario. Ok, bene, anche se in realtà fuori onda ci ha dato un'altra risposta, comunque vabbè. Non si poteva dire, dice il nostro compagno Restino, che è la persona che stiamo appunto intervistando, che sta dialogando con noi, non è che siamo formali, perché assolutamente. Siamo totalmente informali, non siamo il gruppo anarchico informale, se non qua ci arrestano, è vero. No, infatti, ora capo. Vabbè, siamo nella follia, che stiamo ridendo, ci stiamo divertendo un sacco e stiamo respirando questo Eternit, però qui diciamo che è un po' più bonificato. Asbestosi pleurite, quando ne volete. A festo, insomma. Allora, va bene, vuoi aggiungere qualche altra cosa? No, mi fa cenno di no. Ok, bene, e dopo questa ulteriore chiacchierata con un giovane compagno che si sta propinquando alla nostra bottiglia che abbiamo recuperato, se vuoi puoi anche berne un sorsino. Whisky, questo offre la casa, e qui ci siamo la speaker e il tecnico si sono procurati praticamente questo bottiglione, perché stanno congelando anche un po' la fredda. No, partevamo anche l'acqua secca da fuori di parlare, quindi soprattutto devo dire che è la voglia. E va bene, allora io direi di ascoltare un altro poco di musica, sempre offerta dalla fantastica radio Transizione di Fase, web radio libera e indipendente, che potete ascoltare all'indirizzo transizionedifase.org, ma se ci state ascoltando effettivamente sapete già qual è il nostro indirizzo. Benissimo, allora liberiamo il nostro amico Orestino e magari prima o poi riusciremo anche a intervistare l'Orestore, che oggi compie 40 anni addirittura. Oh, sì. Oggi compie 40 anni Oreste. Sono quindi 40 anni che è morto Feltrinelli. Sono 40 anni che è morto Feltrinelli. Ma sarà una reincarnazione di Feltrinelli? Non è dato sapere. Ma e va bene, allora niente, un po' di musica, vai. Tanto non stavamo streamando. No? No, diceva connecting.